tutto. Eia. Adesso sì. Come la radio, amplificata, sì? Sì, un pochino amplificata, sì. Ok. E vabbè, questo microfono serve un cazzo. L'R55, per carità. Sì, quello che ha i due toni, lo detaggio, quello che ho anche io, sì. Eia, ah, perché calcato questo microfono, la capsula bisogna ricambiare, posso prima. Ah, cioè c'è la capsula a cambiare, eia. E l'altro ce l'ho, non lo uso mai, anzi è qua nella polvere, e va bene. Va bene, meno male che oggi un raggio di sole è uscito, guarda, mi stavo godendo quello qua. Quello sì, a parte dove vedo qui, non sono neanche uscito. C'ho la mal di gola, cazzo. C'ho la gola che è infiammata. Sì, guarda, è un periodo un po' troppo umido. Pensa, questi tre giorni non ha fatto altro che piovere. C'è un po' di fresco, pioggia e umidità, anche uscendo a piedi o in macchina, un bel di umidità. Infatti io in moto per il momento l'ho accantonata, perché non voglio avere una ricaduta di influenza, capito? Hai fatto bene, hai fatto veramente bene. È un casino che sto uscendo in moto, con il tuo freddo vive poi. Cocco? E conta che io ho anche il parabrezza, bene o male 90% del vento frontale te lo blocca, però l'umidità la senti lo stesso ai lati, la senti un bene. Qualcuno esce con quelle coperte addirittura, le hai mai visti, quelle specie di coperte che ti coprono le gambe e il bacino. E vabbè, cosa mi pongo? La coperta. No, ma va così, ma per chi ti vede? No, diciamo sono coperte da moto, sono fatte apposta, però ti limita nei movimenti, è un casino, non ne uso a quei livelli di moto, e preferisco allora lasciarla a casa. Ah beh, fai bene più che altro, per carità, a uscire in quelle condizioni, con la coperta a casa. Brutta. Poi l'altro giorno, non mi ricordo se eri tu all'ultimo, mi sono assentato un istante, sono rientrato e erano tutti spariti, forse avevano fatto QRT, ma di botto mi, proprio ho controllato la stazione adesso, 19, torno indietro, tutti spariti, e vabbè dai. Allora, tutti spariti, ogni tanto ne sparisce uno. Allora, cosa un bel strana, questa antenna mi sta dando i picchi negativi, me l'ha fatto l'altro giorno, qualcosa me l'ha fatto, gli ho detto cazzo, o sto impazzendo io, o sto impazzendo l'antenna, perché cazzo, la cacca mi dava 50 watt, l'altro giorno che ha piovuto, che quando piove fa massa 100. Io ho un po' di stazionarie, non le misuro perché sennò adesso ormai l'ho staccato lo strumento, però con pochi watt non fa niente, non mi tange, non mi fa niente, tanto stiamo parlando entro Sassari. Ah, quello sì, quello già è vero, non fa niente, no. Vabbè, forse è stato il lineare, quello, se avete stazionarie tendono a partire finali in fretta, quindi meglio usare i watt normali, dai. No, me la fa il palo a me, questione di palo, perché alza. Capito? Stazionarie non neanche controllate, ma dovrebbero essere alte. E infatti. 1,5, ecco perché. Il motivo 1,5 con quanti watt? I soli dell'apparato, vero? Dovrebbe la me dici l'apparecchio, invece me ne da solamente 5. Me l'ha fatto qualche qualcosa, ho che quello l'altra volta, in FM, da 50 me l'hai sceso a 30 tutto un colpo. Come c'è tappia o l'hai salito a 50? Non fa, ma c'è anche picchi negativi, figurati. Ecco perché ho usato l'apparecchio normale. Ma devo dare da mangiare queste gatte. Anzi, non gliene do, oggi non mangiano. Oggi dieta, al Ramadan. Poverini, non devo mangiare i gatti adesso, c'è un cane morto, sì. No, già glielo do adesso, dai. È che avevo appena finito di mangiare io. È così, dai. C'ho anche poche ore di sonno alle spalle, c'ho l'occhietto che casca. Infatti ero entrato a salutare Antonio, che ti ho sentito facendo prove. E io me ne accorgo dallo smitter che c'è un po' di stazionarie. E sale un po' troppo, sale anziché a 9,95, sale a 9 più 15, buono. Tendente a 9,20 anche. Ho capito. Lì, non ci vuoi sulla canna di altra sopra. Ah, cosa, con la catavetta, se la piglia in culo. Adesso, appena c'ho due minuti di tempo, mi faccio la basetta della mantova e quando finisce tutto questo casino di tutta quest'acqua che sto facendo, salgo su e rimetto la mantova sopra. Sì, beh, la mantova è tutta, come dire, revisionata, sì, pulita e tutto, sì. Allora, pure la base di sotto dei radiali, poi dove aggancia le due staffe delle, che agganciano al palo, perché appena ossidato e basta. La sto facendo con calma, capito? Tanto fretta non ne ho momentaneamente. Una volta che è fatta la lascio lì, non la tocco più, muore di là sopra l'antenna. Dove altri 10 anni come minimo, quindi. Non va bene, Antone. Io stacco, sgancio, vado a mangiare queste stelle e poi si vedrà se più tardi ne voglio rientrare, ma vediamo. E vabbè, ok. Già sono qua all'ascolto. Ehi, ciao Antone, ci sentiamo, ciao, buona serata. Ehi, ciao, ciao. Coca-Cola. fate massaggio, fallo urgentemente, anche da voi un caso sto, lo so. Dove ha mandato quel capannone, insomma? Sì, un'altra fermata di lavoro in più, Lo so, però queste cose sono anche urgenti, non è questione, capito, purtroppo di sì, sono ogni anno. Sì, 8-9 giorni di lavoro li ho fatti, si andava. Sì, ma se non fai quello là in tempo pure, un casino. No, un casino. Che non vuoi andare quando ti piace? Lo so. Io vabbè. No, ti bloccano tutto, forse non hai capito. Ti bloccano quello che c'è. Fino a questo mese lo devo fare. Ma non se io vado e non me lo danno, io cosa devo fare? Cioè, pure io non ho più cui fanno, ma penso che, vabbè, fino alla fine del mese si fa. Sì, ma siccome devi fare anche l'altra domanda, prima non vai e prima, hai capito? Sì, no, quello non è mai questione di giorni, non ti preoccupare. Ogni volta che apri ci sente qua, come mai? Ogni volta? Che apri fa qua. Sì, sarà, e poi lo premo piano. No, fa qui, quando vuole. Ah, e quello lo sento anch'io. Oh, non so perché parlo. Da controllare le connessioni. Dai, che cosa? Quel micro, l'altro microfono non mi sta funzionando molto bene. Chissà che mala sorte gli è preso. Certo, avvicina, ma. Te lo devo avvicinare, da. Oggi non ha più gana. Abbiamo già fatto 2-3 viaggi. Ah, vabbè. Quando ti viaggi? Principalmente uso il 48, uso perché mi va troppo bene qua. Se non è quasi nel casino, mentre progettare altri cose, mi va troppo bene questo. Che regalo. Certo. Guarda che lo sognavo sempre, uno, a tenerlo e usarlo. Cavolo, mica cazzo l'ha avuto. E guarda come lo tocca. Carino, Bueno, anche se prende colpi, però mi piace perché è una radio robusta, è una radio che puoi usare tutti i giorni, non succede niente. Guarda che ti senti adesso, non tu? No. Ah, non ho capito cosa, quando scudo il bip. Può essere. Sai, vedi che non fa così. Qua, quando scudo il bip, lo fa. In pratica è il bip, capito? Vediamo un po' così. Prova. Guarda così. Vado. Allora, vediamo così. Bip. Così c'è il bip, no? E così non dovresti più sentirlo poi. No, c'è il bip. Questo c'è una specie di reverbero, guarda. Ora. Ora rimane una giubbata, una da Fainì, cavolo, è uscita una bomba, buonissima. Ne ho fatto una, c'erano mie nipotine, mia sorella e mio cognato. Cavolo, si era incribata. Ah, io non ho avuto niente, io non posso giudicare. Che cosa? Io non ho visto niente, anzi come facciamo a dire se era buono? Era molto buona, era. No, mi sta uscendo buona, da quando ho messo quella pietra ha cambiato dal giorno alla notte. In quella pietra tu fatti anche il pane, la pizza, la focaccia. Non ho messo quella pietra nel forno, cavolo. Il forno non dà quel calore violento, perché se la metti senza quello si brucia. Mi si bruciava poi niente. temperatura giusta, l'acqua ne cucina dentro ed è buona. È proprio le piazzuta, si è rimagnata con cuore. L'acqua in buona, mia è buona. Mi sono molto imparato a farla bene. Ne ho comprato anche io una fagna di ceci, ma non la faccio questi giorni, la farò un po' più là. Una me la sono crepata io da solo, era talmente buona e poi rimane croccante, ma ti pare che compare di buffare, ma lascia perdere. E poi trovo un'altra ragazza di quelle pietre, metti la griglia, la metti sopra una griglia e la griglia la metti a contatto più vicino possibile al cielo, alla parte di su, metti a griglia, prima accendi normale, lo faccia di temperatura, ok, e poi metti l'altra teglia con l'altra pietra sotto, sempre più vicino possibile una con l'altra. In pratica fai come il forno del fico, capito? Una pietra sopra e poi in mezzo puoi cucinare la pizza, il pane, la focaccia, capito? Sì. Sta facendo una bomba, sto dicendo. Ma per il momento quello lì lo farò, lo sai, la pizza, la focaccia. Quando potrò permettermi di comprarmi quel forno là, allora diverso la storia. Allora me faccio anche le pizze in casa, non ne compare più di uno. Non ne compro più pizza. Proprio me la faccio in casa e ti mandiamo la roba nostra. Ma il tuo quanto è alto, Lu? La tua bocca quanto è alta? Ma potrei lasciare riposare più buona azienda. Io ho imparato la vita a farlo. Ho capito. E più la lasci riposare, più buona si viene. Ho detto che io avevo imparato a farla. Ma la pizzeria la riesco, quando lavoravo la riesco. Sì, no, la faccio riposare molto. La preparo dalla mattina alla sera, è buonissima. Sì. Ancora comunque non riesco a capire una cosa, perché questa panina di ceci io la pago pochissimo, cioè la pago 1,80 euro qualcosa, cioè, e loro giù nella locomotiva è 2,50 euro, però c'è anche il Conad, cioè la panina di ceci, perché io la pago così poco? Pochi soldi deve scapparne, 3 teglie, deve scapparne, cioè, e questi qua, perché la fanno pagare così tanto? Un panetto di pizza pesa 230 grammi, quindi fa più o meno, 230 grammi, e perché ci fanno pagare una misera pizza oggi, 5 euro, 6 euro? Rispetto a prima che portava a me fare 3.000 euro la margherita, vai a comprare qualcosa giusto, non fare 7 euro, e non ci sono tutti questi costi di ingredienti. 7 euro la pizza da sport, vai a comprare la mania all'aereo coso. Scusate, vai a vedere quanto ti costa, allora se partono 10 euro, ma perché? Ma la faccio in casa mia, adesso più là io, quando potrò, mi compro il forno, mi prendo il forno, una maniera e l'altra, mi riporto in casa, mi faccio l'impasto, anche dura, vieni, cosa ne so, vieni che dovrei che so quanti panetti ne devo fare, se mangiamo una pizza, ma con la mozzarella vero però, non con la mozzarella. Ma sai quella mozzarella che ti ho detto io, la è buona, quella lì, vedi, prendila, e poi mi dovrei ripulire. È già Julien, già pronto, ed è buonissimo. io l'ho presa per provarla e certo no. Allora, se no me la porto in casa, non è un problema, figlio Beatrice Arborea, me la a manco a mozzarella vero. Dipende quella già pronta, diciamo, no? E ti sei quelle rotonde dove non rendono tutto acqua, devi mettere ad asciugare dal manzano. Io quelli lì quando le prendevo le mettevo dalla mattina, mi mettevo uno spalapasta, mi mettevo un piatto sopra con un peso, in modo che scolassero tutta l'acqua, se no non rendono quando si sciolgono, capito? Vabbè, però il sapore è buono, no? Il sapore è cazzo 10, e non so, ci vuole proprio quella per la pizza, non già lo so che già la vendono, anche da un respiro. Tutto in casa, scommetti, allora, considerando l'impasto e tutto, cioè, secondo me fatto in casa, quanto è, 3 o 4 pizze escono, per quel prezzo che la paghi, per quel prezzo che tu la paghi. Guarda, con 10 euro mangi 4 pizze belle, belle condite. Sì, prenditi quella là, è già giù, è già tagliata, non mi pare a metterla sulla pizza. Quindi quella là non fa niente, è buonissimo. Ma è così, tutte le cose, Antonio, così, oggi mai buono la pasta, oggi mai la gente le compagne passare in casa, io ogni tanto la pasta fresca, le tagliatelle, il seme. E il discorso è sempre, sempre lì, Antonio, certo che si risparmia. Cavolo, è troppo, Cioè, ma se devi mangiare una famiglia, ti batti 50 euro, 60 euro non li vedi neanche in pizza. Cioè, se io dovessi invitare la mia sorella, la mia piccola, a loro due, tutti quanti, a mia cognata, cioè, a me ne vengono 60-70 euro di pizza. Oggi hanno aumentato tantissimo, purtroppo hanno aumentato tantissimo. Sì, se uno ha pazienza, passione, come abbiamo detto, mi faccio anche il pane, le pastature, le piadine, le piadine sono anche a farlo, e sostituiscono benissimo anche il pane. Io appena che posso voglio fare uno sforzo, voglio fare, me lo voglio prendere, questo forno qua me lo voglio comprare, perché c'è la bucunese, è ogni volta un patrimonio, quindi so che domani devo mangiare pizza, la sera prima me la preparo, preparo l'impasto, preparo tutto, cazzo, una piccola, secondo come va mi prendo anche una piccola, come si chiama, impastatrice piccolina, cazzo, mi faccio tutto in casa. Non fare. Adesso io le 5 figli, l'impastatrice. E ci vuole, perché a mano non ha mai più sicuro. L'avrò già comparato, ma una più piccola, da 2 kg la trovo. Da 3 kg c'è, sì, si sente da 2 kg, sì, sì. Me la prendo, tutto lo prendo, devo riuscire a prendere il forno, poi prendo la cosa e me lo metto qua in cosa. C'ho un forno che fa bene, è tutto, mi faccio le pizze, me le faccio io in casa e me ne scende a culo. Passati ci abbiamo fatto bene, le trovi anche lì, le trovi. Se vuoi prendere un passati c'è mora, meno di 80 euro non la faccio, meno di 80 euro non la faccio. Se voi la prendi usata, lì non è fatto bene, cioè, intanto si è lasciato. Da 3 kg va bene, a me 5 kg no, cavolo, non è che noi siamo. Si fa intanto, è fatto bene, credo che ci sia ancora là, che vedi se ce li hanno lì. Il forno, ripeto, se sei in 2 o 3, io ce l'ho come l'invito, come per la pizza, finché sei in 2 o 3 riuscire un po' a vedere un po' la situazione. E si fa, è una cosa, cioè, non mi pare vero a me. Ah, io come ho visto, questo ragazzo stava vendendo un nuovo nuovo, l'ha usato una volta, dall'altro. Questo ragazzo mio va a pelle, legna, e già, piatto, tutto, già. Ecco, l'ho detto da due mesi qui. Nuovo, ma ecco, l'ho usato una volta. E ma si vedeva, Poi vabbè, io ho fatto tutte le modifiche del piatto rotante, con regolatore di velocità, eccetera, eccetera. Mi ha fatto più l'indicazione sotto e funziona alla grande. Capa, quelli che stavo guardando si possono mettere anche dentro qua, se no, in appartamento, cioè io lo metto nel terrazzo. Sì, si possono mettere qui, però non li consigliano, capito tu? Perché c'è l'esalazione del gas, non li consigliano però. Sì? Io stavo pensando, siccome c'ho già il regolatore, stavo pensando di mettere una T collegare la cucina e il forno e via, capito? Sì. Metti due regolatori, ti metti, e fare anche così, c'hai lo spazio. No, devi stare con due bombe, capito? No, che due regolatori, cosa si intende? Quello là, il suo non lo metto. Vendono le T, capito? Una bala, allora, uno va alla bombola, la bombola principale, va alla cucina, va, uno va alla cucina e uno va al forno. È la stessa cosa. Li metto le fascette, la conosci la T come è fatta? E io tengo una bombola per alimentare sia cucina sia cosa. Logicamente se devo alimentare il forno non alimento la cucina. Sì, non mi hai capito, ma il regolatore ci vuole per forza. Io ce l'ho anche nella bombola, nella cucina, il regolatore. Aspetta la bombola. Il regolatore di pressione ci vuole per capito? Sì, quello sì. Ma io con uno faccio tutto. Ma devi stare a regolare, per quello ti ho detto due, hai compreso? Per quello ti ho detto due, perché uno regoli quello della cucina ed è una cosa, il fornello è una cosa, il bruciatore è un'altra, ecco perché ti ho detto che servono due regolatori. Se non devi stare regolando con una te, si abbassa per la cucina e solleva per il forno, capito? No, non la posso io. La metto a taratura qui, se non sbaglio, metto quello compatibile all'originale, non sbaglio. Perché tanto alla fine dovranno essere fatti più, dimmi, i regolatori. Quello a regolazione variabile doveva scomparire, ancora